Luana, il Senato approva una mozione sulla fine d'età. A Udine disposta l'autopsia, la procura spiega non abbiamo notizie di reato. Crolla la produzione industriale a dicembre per l'auto, è un meno 48%. Bruxelles prova a correre ai ripari, riuniti i ministri economici. Israele alla svolta, seggi aperti con la destra ultranazionalista favorita. Dialogale ci prova intanto l'Iran. Siamo pronti a discutere con gli Stati Uniti, dice a sorpresa Ahmadinejad. Non dimentichiamo la sofferenza di nessuno. Napolitano ricorda così le foibe e l'esodo di 350.000 italiani. Il derby del mondo, Italia e Brasile in campo a Londra. Una sfida tra campioni, ci saranno 18 titoli del mondo a sfidarsi. Gerry Stralargio, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Eluana Englaro dunque non c'è più, ma il dibattito politico va avanti. A questo punto a chiedere una riflessione, un momento di riflessione, è il Quirinale. Lasciate. Così dunque le parole di Giorgio Napolitano questa mattina. Il capo dello Stato ha parlato alla cerimonia in ricordo delle foibe, noi ne parleremo più avanti. Continuiamo invece ad occuparci del caso Luana, o meglio di come sta procedendo la politica. Fermata la corsa all'approvazione del disegno di legge predisposto dal governo, al Senato si è comunque continuato a discutere questa mattina. Allora andiamo a Palazzo Madama da Andrea Viali. Sì, al Senato stamattina è ripresa la discussione sul caso Englaro e sono state votate alcune mozioni che ribadiscono la necessità di arrivare quanto prima all'approvazione di una legge sul testamento biologico. L'unica di queste mozioni passata, approvata, è quella presentata dalla maggioranza e dall'UDC, e questa mozione impegna anche il governo a garantire alimentazione e idratazione ai malati che non sono in grado di provvedere a se stessi, in attesa appunto che venga approvata questa nuova legge. E ieri sera, dopo la notizia della morte di Eluana, maggioranza e opposizione, lo ricordiamo, hanno trovato un'intesa per far passare questo provvedimento entro un paio di settimane. La legge sul testamento biologico è da tempo all'esame della Commissione Sanità di Palazzo Madama. Ecco, su questi temi è intervenuto stamattina qui al Senato il ministro del welfare Sacconi, sentiamo cosa ha detto. Il governo ha ottenuto, dopo la tragedia, di avere un percorso certo e rapido circa la legge sul trattamento di fine vita, e l'opposizione ha rinunciato all'ostruzionismo che aveva in atto in seno alla Commissione. Di più, c'è un fatto positivo: le due mozioni del PD e del PDL hanno in comune una cosa: sulla base di esse, di norme con esse coerenti, non sarebbe più possibile portare a morte Eluana Englaro. Peccato che questo si decida oggi in Parlamento e non come sarebbe stato possibile nei giorni scorsi, a conferma che c'erano tutte le ragioni di necessità ed urgenza per salvare la vita di Eluana Englaro. Ecco, da una parte c'è l'accordo per l'approvazione di questa legge, dall'altra però dobbiamo dire che continuano anche le polemiche che ieri hanno investito anche il capo dello Stato. Anna Finocchiaro del Partito Democratico ha accusato la maggioranza di aver strumentalizzato la vicenda Englaro. Sentiamo le sue parole. Non è solo un sospetto il fatto che a partire dal caso di Eluana Englaro si sia voluto montare contemporaneamente un attacco al Presidente della Repubblica, legittimare l'uso del decreto legge da parte del Presidente del Consiglio, quindi ridurre le funzioni del Parlamento con un uso anche eversivo delle maggioranze parlamentari e frantumare l'autorevolezza dei giudicati, quindi della magistratura italiana. Un'operazione molto sofisticata, molto forte dal punto di vista simbolico, ma che credo di poter dire abbiamo intercettato. Ora si torna a discutere in Parlamento, questa è la sede, questo è il luogo e questo è anche il cuore della democrazia italiana. A tirare in ballo Napolitano ieri sera, lo ricordiamo, era stato in particolare Maurizio Gasparri, il capogruppo del Popolo della Libertà qui a Palazzo Madama, che poco fa ha voluto precisare il senso delle sue affermazioni. Sentiamolo. Ieri al Senato si è vissuto un momento di grande tensione, di grande emotività. Io sto in Parlamento da ormai molti anni e non ricordo un momento così intenso, difficile e drammatico. In momenti di tensione, di difficoltà e di dramma ci possono essere anche espressioni forti, e credo che anche il senatore Quagliariello abbia chiarito già ieri nella riunione che abbiamo avuto con i capigruppo che non c'era nessuna intenzione di offendere i colleghi. Per quanto mi riguarda, non intendevo offendere nessuna istituzione della Repubblica che rispetto. Io affermo delle opinioni su una vicenda importante, stiamo discutendo della vita e della morte. Quindi non è un problema di cavilli, di codicilli. Ecco, così Maurizio Gasparri per il momento da Palazzo Madama è tutto, linea allo studio. Grazie Andrea Viali. E intanto in viaggio verso Udine, verso la clinica dove è morta Eluana Englaro, è il padre Beppino Englaro. Intanto i magistrati hanno disposto l'autopsia. Poco dopo le 12, Beppino Englaro e sua moglie Sati sono usciti dalla loro casa a Lecco e sono partiti alla volta di Udine, dove nel pomeriggio vedranno per l'ultima volta la loro Eluana. Stamattina Beppino Englaro si era limitato a dire «sto un po' meglio», mantenendo il riserbo che ha scelto per vivere questo momento. Oggi prevale il silenzio anche fuori dalla clinica La Quiete, dove Eluana è morta ieri alle 19.35. La zona è transennata e controllata da un ampio schieramento delle forze dell'ordine. L'ultimo saluto dei genitori avverrà prima dell'autopsia decisa dalla Procura della Repubblica di Udine e affidata all'anatomopatologo Carlo Moreschi, lo stesso medico che la magistratura aveva incaricato di seguire la corretta applicazione del protocollo autorizzato dalla Corte d'Appello di Milano. Il momento dell'autopsia non è stato ancora deciso, ha spiegato Moreschi, e l'avvocato Campeis, che ha assistito la famiglia Englaro, ha comunicato di aver nominato due periti per assistere all'esame e ha ribadito che il protocollo è stato seguito alla lettera in collaborazione con i consulenti della procura. Il procuratore generale di Trieste, De Idda, ha detto che al momento la magistratura non ha notizie che siano stati commessi reati. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ieri sera, mentre su diversi canali TV è partita la diretta per raccontare l'addio ad Eluana e il dibattito della politica in diretta, era anche Radio 24, non così è avvenuto su Canale 5. Enrico Mentana, che aveva chiesto di andare in onda in polemica, si è dimesso. Sugli schermi di Canale 5 è andato in onda invece il Grande Fratello, che ha fatto il record di ascolti, 7.920.000 spettatori. Sentiamo Gianluca Nicoletti. L'implacabile verdetto dell'Auditel sancisce che gli italiani hanno preferito di gran lunga seguire le vicende dei ragazzi del Grande Fratello piuttosto che lo speciale di Bruno Vespa che stava sulla notizia del caso Eluana Englaro. Dov'è la meraviglia? Si pensava davvero che una questione così risolta per la modernità come la definizione dei confini della vita potesse essere più interessante per il campione medio dell'ascolto televisivo delle dispute tra la bombastica e il burino? È difficile pensare che la liturgia settimanale del consumatore generalista potesse essere scalfita da una disputa così strumentale tra le parti politiche attorno a una vicenda umana tristemente complessa, al punto di non tollerare altri commenti. Non è sostanzialmente accaduto nulla di nuovo ieri, o perlomeno nulla che smuovesse l'attenzione di chi è assuefatto a vedersi servire vita e morte come pietanze intercambiabili nel menù quotidiano della cucina televisiva. E voltiamo pagina. Seggi aperti in Israele per le elezioni politiche anticipate per rinnovare i 120 seggi parlamentari della Knesset. Si vota naturalmente in un clima che vede anche, come ovvio che sia, le misure di sicurezza al massimo livello e con i sondaggi che danno per favorita la destra nazionalista. Andiamo in Israele da Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Dunque, questo dicono i sondaggi, quali scenari potrebbero dunque uscire dalle urne anche in termini di alleanze tra le varie fazioni? Ugo. Ma è tutto aperto perché sicuramente il fronte delle destre rispetto al fronte del centro e della sinistra avrà i numeri per governare, i numeri tecnici per governare la maggioranza dello superiore ai 60 seggi di un Parlamento di 120. Il problema è che è una destra imbarazzante per la stessa democrazia israeliana, perché in questa destra anche in diversi deputati dello stesso partito Likud, che è il più centrista dei partiti della destra, ci sono personaggi notoriamente famosi per il loro razzismo anti-arabo. Quindi è difficile prevedere comunque vadano le elezioni che genere di governo possa venire fuori, perché se Bibi Netanyahu vincerà con pochi voti, se invece Tzipi Livni riuscirà invece a fare il miracolo di raggiungere e superarlo, ancora oggi un elettore su cinque non aveva preso una decisione precisa, anche se vince Tzipi Livni, dicevo, vincerà comunque di uno o due seggi. Parliamo di il partito che vincerà sarà difficilmente raggiungerà i 30 seggi, quindi è una cosa bassissima per poter veramente guidare con forza un governo. Quindi tutto è aperto, la cosa ipotesi più probabile è un governo probabilmente di unità nazionale o comunque di destra, centro-sinistra, dove si è ipotizzabile il Likud, il centro di Kadima e la sinistra del partito laburista, ma anche un governo così prima o poi di fronte alle pressioni dell'amministrazione Obama che chiederà presto di riprendere il processo di pace, un governo così si troverà di fronte alle sue stesse contraddizioni e quindi rischia di collare, rischiamo di trovarci presto a nuove elezioni anticipate. A nuove elezioni. Grazie Ugo Tramballi, naturalmente col quale torneremo a collegarci nel corso della giornata, man mano che arriveranno le notizie da Israele. Vi ricordo tra l'altro che questa sera il nostro speciale dedicato proprio alle elezioni in Israele, andrà in onda alle 21, dopo la chiusura dei seggi. E a volte è lo sport ad incrociare la politica, amichevole di lusso per il calcio, con tanti riflessi, quella in scena questa sera a Londra, si gioca Italia-Brasile. Calcio d'angolo, rivediamo il calcio d'angolo di Conti, il tiro è di Graziani, è di Rossi l'ultima deviazione, tripletta di Rossi al 29esimo, l'Italia per la terza volta in vantaggio. Parole di Nando Martellini, musica di Italia-Brasile 82, quando un certo Pablito, con le sue gambette di vetro, fece la tripletta più famosa della storia azzurra. Da allora Rossi per tutti e la mazza Brasile. I bei ricordi, parlando di questo super derby che si giocherà stasera in amichevole a Londra, nello stadio degli Emiri, fanno bene, perché di solito col Brasile sono cavoli. Basta ricordare il 4-1 a Città del Messico nel 70, con Pelé che vola sulla testa di Burnic, e la finale persa ai rigori di Pasadena nel 94, con Baresi che piange come un vitello e Baggio che si mette le mani sul codino. Ma stasera a Londra, in gaggio da 800.000 euro, i campioni del mondo siamo noi che abbiamo trionfato sotto il cielo di Berlino, mentre i verde oro tornavano a casa tra i fischi. Ma per noi il Brasile è sempre un mito, e non solo perché i carioca di mondiali ne hanno 25 e noi solo 4. Sono un mito perché anche quando perdono sembra che il giardino del calcio sia loro, e perché col calcio sanno ancora ridere, mentre noi, tra fischi, coltelli e processi, riusciamo sempre a rovinare tutto. Ma stasera vogliamo divertirci, lasciando qualsiasi altra questione dove deve stare, non in un campo di calcio. E se poi finisce così, tanto meglio. È finita, l'Italia è semifinalista, ha battuto il Brasile in una partita esaltante. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E il calcio dunque che si incrocia con la politica, visti i riflessi del caso Battisti sulla partita Italia-Brasile, e calcio che a volte è anche stato testimone della storia. E sentite questa storia. I dalmati si sono recati fino al monumento ai caduti, che sorge quasi a picco sul mare, di fronte alla loro terra. E presente il gonfalone di Zara, salvato dalle mani jugoslave, hanno deposto una corona d'alloro. Ma tu te la ricordi, la Fiumana? E tu l'hai vista giocare? Nei campi profughi che ospitavano gli esuli istriani e dalmati bastava nominarla, quella parola, per vedere accendersi negli occhi una luce nuova. Perché quella squadra di calcio, l'Unione Sportiva Fiumana, quegli 11 ragazzi che inseguivano un pallone su un prato con indosso una maglia amaranto, era il simbolo della terra amata e poi perduta, dei tempi felici cancellati dall'avanzata delle truppe del generale Tito. E che campioni che quella squadra regalò al calcio italiano, come ricorda Sergio Vatta, esule di Zara ed ex allenatore delle giovanili del Torino. Loic nel grande Torino, dove vinse 5 scudetti, ma altri giocarono in Italia, come Volk, che diventò capocannoniere del campionato italiano nella Roma. La Fiumana chiuse i battenti in Serie C nel 1942-43. La guerra ebbe la meglio sul calcio e alla fine del conflitto Fiume era ormai annessa alla Jugoslavia. Ma il sogno di quelle maglie amaranto prova oggi a rivivere. Sergio Vatta, insieme al fratello Antonio, sta raccogliendo capitali e adesioni per far tornare in campo una nuova Fiumana, fatta di giovani calciatori e pronta a iscriversi al campionato di Serie C e a giocare a Torino, ma con le stesse maglie amaranto di allora. In fondo basterebbe qualche calcio a un pallone per lenire la ferita del destino, come spiega Antonio Vatta. Come giorno del ricordo, che è stato un riconoscimento morale, noi pensiamo che anche questo, di ricostruire, di rifondare questa squadra, è un segno di riscatto per la nostra gente. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:17, le notizie di oggi extra large. Il procuratore della Repubblica di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo di Eluana Englaro. Per ora non abbiamo notizia di alcun reato, ha aggiunto, mentre il padre è in viaggio per Udine. Dopo la morte di Eluana, al Senato la politica continua a discutere, non più sul disegno di legge, ma su 3 mozioni presentate dai gruppi parlamentari in materia di fine vita. È il momento del dolore e della riflessione, dice il capo dello Stato Giorgio Napolitano, e il sottosegretario Letta chiede il silenzio. È una giornata di dolore in cui forse il silenzio avrebbe reso più forte anche la celebrazione del ricordo. Prima conferenza stampa ufficiale di Barack Obama alla Casa Bianca e appello al Congresso per l'approvazione del piano di stimolo all'economia. 4 milioni di posti di lavoro, mercato del credito che gira e mercato immobiliare stabile sono le tre misure che si pone come obiettivi. E intanto a Bruxelles sono riuniti i ministri economici per discutere degli aiuti in Europa, mentre in Italia arrivano i dati della produzione industriale a dicembre, un crollo atteso, un meno 12,2% rispetto allo stesso mese del 2007 per l'auto, rispetto ad un anno prima il calo è del 47,7%. Seggi aperti in Israele per le elezioni politiche anticipate, misure di sicurezza al massimo livello. I sondaggi attribuiscono la vittoria al Likud, la destra nazionalista, oggi all'opposizione. E l'Iran apre al dialogo. Siamo pronti a trattare con gli Stati Uniti, ma in un'atmosfera di uguaglianza e nel rispetto reciproco. Parole del presidente Ahmadinejad nel trentennale della rivoluzione iraniana. Sono 25 gli incendi che ancora bruciano in Australia, quasi 200 ormai le vittime in un territorio di oltre 3.000 metri quadri. Intere cittadine sono scomparse tra le fiamme. Alle 20.30 a Londra l'amichevole tra Italia e Brasile. In campo 9 coppe del mondo su 18 assegnate. Il CT azzurro Marcello Lippi lancia così la sfida. Il derby del mondo mi piace come definizione. Il derby del mondo perché sono le due squadre più titolate. Abbiamo parlato poco fa dell'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a proposito della vicenda Eluana, parole quelle del Capo dello Stato dette durante la cerimonia in ricordo delle foibe. Paola Nania, buongiorno. Buongiorno a voi. Il primo pensiero, come dicevate, di Giorgio Napolitano in apertura della cerimonia per ricordare le vittime delle foibe, il primo pensiero è proprio per Eluana. Questa cerimonia, ha detto il Presidente della Repubblica, cade in un momento di dolore e turbamento nazionale, un momento che può divenire anche di sensibile e consapevole riflessione comune. Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, parla di giornata di dolore e di silenzio. Giornata, dicevamo, dedicata qui al Quirinale al ricordo delle migliaia di vittime delle foibe, a loro e agli esuli di Istria, Dalmazia, Fiume, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si rivolge a Giorgio Napolitano che dice: nessun revisionismo, ma non possiamo dimenticare. Sentiamo il Capo dello Stato. La memoria che coltiviamo innanzitutto è quella della dura esperienza del fascismo e delle responsabilità storiche del regime fascista, delle sue avventure di aggressione e di guerra. Non dimentichiamo e cancelliamo nulla. Nemmeno dunque le sofferenze inflitte alla minoranza slovena negli anni del fascismo e della guerra. Ma non possiamo certo dimenticare le sofferenze fino a un'orribile morte inflitte a italiani assolutamente immuni da ogni colpa. Grazie a Paola Nania. E il commento di Daniele Biacchessi. Oggi è il giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Una giornata istituita nel 2004 dalla Presidenza della Repubblica in memoria di migliaia di cittadini italiani uccisi per motivi etnici e politici durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli assassini erano soldati dell'Armata Popolare di Liberazione della Jugoslavia. 2.500 morti, 7.500 scomparsi. Le foibe venivano utilizzate per occultare i cadaveri degli oppositori alle politiche del Partito Comunista Jugoslavo di Tito. Per lungo tempo su queste vicende sembrava cadere l'oblio della storia. Fino al 1989, del resto, il mondo era diviso in due dalla cortina di ferro e nonostante gli strappi il PC restava in qualche modo ancorato a Mosca. Poi iniziarono le ammissioni e le ricostruzioni storiche. Da quelle fessure della terra sono uscite finalmente le verità nascoste e occultate per anni. Come era accaduto nel 1994 per il cosiddetto armadio della vergogna, che aveva inghiottito centinaia e centinaia di fascicoli relativi alle stragi nazifasciste. Ma il paese della politica sembra ancora diviso ed è ancora alla ricerca di una memoria che possa unire. E questo accade proprio nell'anno in cui si celebra il 20° anniversario della caduta del muro di Berlino. Ma in altre parti del mondo la ricerca di una memoria condivisa ha trovato ben più rapide soluzioni. Il peggior incendio della storia del paese. Parliamo dell'Australia che sta vivendo giornate davvero drammatiche per il fuoco che ormai ha divorato ampie zone dello stato di Victoria sulla punta sud-orientale del continente. Ci colleghiamo allora con Linda Di Virgilio. Linda, buongiorno. Buongiorno. è vero, si aggrava il bilancio delle vittime negli incendi che continuano a devastare vaste zone nello stato del Vittoria. Nelle ultime ore il numero delle vittime ufficiali è salito a quota 181 e le autorità avvertono che il numero è destinato ad aumentare e potrebbe superare di molto le 200 unità. Le fiamme hanno distrutto più di 3.000 chilometri quadrati di territorio, hanno cancellato intere cittadine dalla mappa nel giro di 24 ore nel corso del fine settimana appena trascorso, quando le temperature hanno raggiunto i 47 gradi. Più di 900 le abitazioni distrutte e 7.000 sono i sopravvissuti iscritti nelle liste della Croce Rossa. 25 gli incendi ancora in corso che bruciano su di un'area di 65 chilometri e ci vorranno almeno 2 settimane prima di essere dichiarati sotto controllo, anche a causa della presenza di forti venti, mentre ci vorrà almeno un anno prima di tornare alla normalità. Sono circa 500 i militari delle forze di difesa australiane impegnati nelle operazioni di soccorso, nel costruire le linee di contenimento e nel ripristinare la viabilità di molte strade interrotte. Squadre speciali di medici impegnati nelle operazioni di soccorso a seguito degli attentati terroristici di Bali sono stati inviati sul luogo per procedere con l'identificazione delle vittime. E intanto la Polizia Federale continua le indagini. Ricordiamo che molte aree devastate sono trattate come scene di reato per la possibilità di incendi di natura dolosa. Da alcune indiscrezioni pare che la polizia sia sulle tracce di un sospetto. Immediata e generosa è stata la risposta alla catastrofe da parte di tutta la popolazione australiana e non solo. Il primo ministro Kevin Rudd ha ringraziato tutti coloro che hanno fatto donazioni, aggiungendo nel corso della seduta parlamentare di quest'oggi che il presidente americano Barack Obama è nella lunga lista di capi di Stato e di governo del resto del mondo che hanno formulato le condoglianze e in alcuni casi fornito anche assistenza. Da Melbourne è tutto, a voi la linea. E grazie a Linda Di Virgilio. 3 anni fa iniziavano le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, palcoscenico sportivo che ha attirato 1 miliardo di spettatori e attivato investimenti per oltre 3 miliardi di euro. Ve li ricordate? Cosa resta oggi dei giochi? A questa eredità olimpica il Sole 24 Ore Nord-Ovest ha dedicato un'inchiesta in 2 puntate, la seconda sul numero in edicola domani, sentiamo. Siamo di Saluzzi, siamo venuti a provare la saltare al trampolino. Ci interessava come cosa perché è una cosa interessante che nessuno ha mai provato, quindi potrebbe essere bello. 3 anni fa le Olimpiadi, oggi su quegli stessi impianti sono gli studenti di tutto il Piemonte a misurarsi. Piccolo miracolo post-olimpico, come racconta Laura Moncalvo. Sono circa 4.000 ragazzi iscritti a tutt'oggi, distribuiti in 3 siti. Sono ragazzi che verranno istruiti e gli verrà messo a conoscenza lo sport di montagna. 300.000 le persone che ogni anno frequentano le strutture di Torino 2006. Solo al Palavela sono più di 20.000 le persone che hanno messo i pattini ai piedi. Numeri grossi che però non bastano a far quadrare i conti, visto che l'anno scorso per la gestione della struttura si sono spesi 2,6 milioni 700 mila euro in più di quanto incassato. Difficile tenere in piedi economicamente anche i trampolini del salto di Pragelato. Più di 1 milione i costi di gestione, neanche mezzo i ricavi. Carlos Fernandez, responsabile del sito. Qua l'attività è incentrata all'incirca in 270 giorni per anno solare. Quest'anno avremo all'incirca sui 13.000 salti di atleti. Tornando a Torino, il Palasport è l'unica struttura che può considerarsi un vero e proprio affare. Nel 2008 ha incassato 1.100.000 euro, 50.000 in più delle spese. Discorso inverso per la pista di bob, dove ogni anno tra ghiaccio, personale e manutenzione se ne vanno 2.300.000 euro. Stefano Bompard è il direttore della pista. Nell'ultima stagione, quella che abbiamo concluso lo scorso anno, abbiamo fatto circa 1.100 discese di taxi bob e un totale complessivo di quasi 10.000 discese, incluse la parte sportiva. Le cifre sono importanti, chissà mai se abbastanza per convincere uno o più privati a prendere in mano l'eredità di Torino 2006. La risposta il 7 maggio, quando si concluderà la gara per la gestione trentennale degli impianti. Marco Ferrando, GR24, il Sole 24 Ore, Torino. 13 e 32 minuti a GR Extra Large, le notizie di oggi. È il momento del dolore e della riflessione, così il capo dello Stato Giorgio Napolitano dopo la morte di Eluana Englaro. Al Senato la politica continua a discutere non più sul disegno di legge ma su 3 mozioni presentate dai gruppi parlamentari sulla fine della vita. Il Senato è arrivato tardi, ha detto in aula il ministro Sacconi. Il governo ha ottenuto dopo la tragedia di avere un percorso certo e rapido circa la legge sul trattamento di fine vita. Intanto il procuratore della Repubblica di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo di Eluana Englaro. Per ora non abbiamo notizie di alcun reato, ha precisato la procura, mentre il padre è in viaggio per Udine. Un crollo atteso, i dati della produzione industriale a dicembre, un meno 12,2% rispetto allo stesso mese del 2007 per l'auto. Rispetto a un anno fa il calo è stato addirittura del 47,7%. A Bruxelles intanto sono riuniti i ministri economici per discutere degli aiuti in Europa. E nella notte prima conferenza stampa di Barack Obama alla Casa Bianca, appello al Congresso per l'approvazione del piano di stimolo all'economia, 4 milioni di posti di lavoro, mercato del credito che gira e mercato immobiliare stabile sono le tre misure che si pone come obiettivi. Seggi aperti in Israele per le elezioni politiche anticipate, misure di sicurezza al massimo livello. I sondaggi attribuiscono la vittoria al Likud, la destra nazionalista, oggi all'opposizione. Sono 25 gli incendi che ancora bruciano in Australia, quasi 200 ormai le vittime in un territorio di oltre 3.000 metri quadri. Intere cittadine sono scomparse tra le fiamme. Oggi il giorno del ricordo delle foibe, questo il monito del Presidente della Repubblica, Napolitano. Non dimentichiamo e cancelliamo nulla, nemmeno dunque le sofferenze inflitte alla minoranza slovena negli anni del fascismo e della guerra. Ma non possiamo certo dimenticare le sofferenze fino a un'orribile morte inflitte a italiani assolutamente immuni da ogni colpa. È il derby del mondo, così il CT azzurro Marcello Lippi ha presentato l'amichevole a Londra fra Italia e Brasile. Si gioca alle 20:30, basta un numero, in campo ci saranno 9 titoli mondiali sui 18 assegnati. E dunque crolla la produzione industriale nel 2008, i dati dell'Istat certificano una realtà che ormai conosciamo, il calo è stato del 4,3% nell'anno, del 12,2% a dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Drammatica la situazione che riguarda il settore dell'auto. Meno 12,2% a dicembre rispetto allo stesso periodo del 2008, meno 2,5% sul novembre precedente. Sono questi numeri dell'Istat che di fatto certificano un'economia, quella del nostro paese, che non riesce a ripartire. Nel caso specifico, l'Istituto Nazionale di Statistica prende in considerazione la produzione industriale. Quella di dicembre è la quarta forte caduta consecutiva mensile dell'indice, che porta l'ultimo trimestre dello scorso anno a meno 7,5%, il calo trimestrale più ampio dall'inizio delle serie storiche, ossia dal 1990. La media dell'intero 2008 fa registrare un calo del 4,3%, a livello di settori di attività è quello dei mezzi di trasporto ad essere più penalizzato, meno 31,5%, seguono la lavorazione di minerali, meno 25%, della gomma e della produzione di metallo, in controtendenza le industrie alimentari e delle bevande, particolari settori del manufatturiero e le raffinerie di petrolio, più 0,9%. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E non si arresta un altro calo che però ha ben altri riflessi, quello dei tassi sul mercato interbancario europeo. L'Euribor a tre mesi, ovvero il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali di depositi, ha sfondato oggi la soglia del 2%, scendendo dal 2,01% all'1,99%, il livello minimo dal 1 aprile 2004. Notizie positive dunque per chi paga i mutui. E intanto a Bruxelles sono riuniti i ministri dell'economia dell'Unione Europea, naturalmente allo studio misure per contenere la crisi, per rilanciare l'economia. Valeria De Rosa, a che punto sono i lavori? È uscito qualcosa? Buongiorno intanto a voi e ai nostri ascoltatori. Diciamo che per il momento si tratta solo di indiscrezioni. Sul fronte italiano il ministro Tremonti si è presentato a Bruxelles presentando appunto il piano anticrisi varato dal governo italiano venerdì scorso e ha portato a Bruxelles anche i numeri aggiornati del programma di stabilità che indicano per il 2009 il deficit al 3,7% e un debito che salirà nel 2010 al 112%. Per quanto riguarda il fronte europeo, sotto osservazione è proprio il trattamento dei titoli spazzatura, dei titoli tossici o comunque di tutto ciò che in questo momento rappresenta un grosso problema per gli istituti di credito europei, diciamo. Sono varie le misure che potrebbero essere allo studio, tra cui la bad bank, ovvero una sorta di divisione o all'interno della singola banca o addirittura a livello nazionale, dove far confluire tutti i titoli tossici, oppure la possibilità di un'assicurazione contro le perdite o addirittura la combinazione dei due. Juncker, a quanto si è saputo, ha detto che in questo momento è prioritario e urgente questo tipo di intervento per riportare stabilità e fiducia nei mercati finanziari. Per alcune banche, ha detto Juncker, è addirittura vitale un provvedimento di questo tipo. Staremo a vedere, comunque qualsiasi decisione verrà presa, sarà poi ogni Stato, ogni nazione a decidere autonomamente. L'importante è che ci siano poi delle misure, dei principi comuni a livello comunitario. È tutto. Grazie a Valeria De Rosa. E decidere toccherà anche all'America. Dall'altra parte dell'oceano un messaggio di ottimismo per superare la crisi prova a lanciarlo il presidente americano Obama nella prima conferenza stampa televisiva ufficiale dalla Casa Bianca. Obama si è detto assolutamente fiducioso che la crisi possa essere risolta se, dice, il piano di incentivi all'economia al vaglio del Congresso sarà però approvato velocemente. If you delay acting on an economy of this severity, then you potentially create a negative spiral that becomes much more difficult for us to get out of. Un intervento drammatico, quello di ieri notte del presidente Barack Obama, un intervento sull'economia, un appello al paese perché si raccolga attorno al suo pacchetto economico approvato al Senato e che dovrebbe poi essere approvato anche alla Camera. Un pacchetto che, se non passerà, ha detto il presidente, potrebbe trasformare questa crisi in una catastrofe. Un piano non perfetto, ha detto Obama in un discorso di 8 minuti subito prima del suo incontro con i giornalisti. Il presidente ne ha approfittato per attaccare i repubblicani che hanno resistito in gran maggioranza, soprattutto al Senato ma anche alla Camera, il pacchetto di stimoli. Ne ha approfittato per ricordare quello che ha visto ieri a Elkhart, Indiana, dove è andato a visitare una cittadina dove il tasso di disoccupazione ha superato il 15,3%. Ha ricordato che questa mattina sarà presentato un progetto per sostenere le banche che richiederà probabilmente ulteriori stanziamenti, forse per altre migliaia di miliardi di dollari. Una situazione difficile dunque che occorre affrontare insieme tutti e subito, altrimenti il rischio della catastrofe, come ha detto all'inizio e come ha poi concluso, rischia di essere inevitabile. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. E dall'America torniamo in Italia per parlare di cosa? Della vittoria della buona economia contro gli interessi della mafia. Così infatti viene presentata la nuova Calcestruzzi Ericina. Di cosa parliamo? Dell'impresa sottratta alla mafia nel 2000 e trasformata oggi in una cooperativa di ex dipendenti. Ieri a Trapani l'inaugurazione. Prima dipendenti dei boss, oggi sono loro a capo dell'azienda. Una bella storia quella della nuova Calcestruzzi Ericina di Trapani. L'azienda era stata confiscata al boss Vincenzo Virga nel 2000, venne messa in amministrazione giudiziaria, ma improvvisamente subì un drastico calo delle commesse. Il piano delle cosche era chiaro: mettere in difficoltà la Calcestruzzi per svalutarne il patrimonio e poi ricomprarla. Non è andata così e oggi la sua conduzione è affidata alle mani di una cooperativa costituita da 6 operai ex dipendenti del capomafia. Ora, grazie a tecnologie all'avanguardia, si occuperà di recuperare e riciclare materiali di scarto altrimenti destinati alla discarica. A sostenerla l'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti. Noi abbiamo detto che prima era cosa loro, adesso diventa cosa nostra tutto questo. È cosa nostra nel senso che c'è una realtà sociale che sente questa corresponsabilità di confiscare e di dare lavoro vero alle persone, e queste cooperative fatte dai ex lavoratori sono un segno di grande speranza. La nascita della nuova realtà produttiva è stata resa possibile grazie all'apporto fornito anche da Uni, Apple, API, Ampar, Legambiente e Legacoop, ma soprattutto grazie a colui che si batté per impedire che l'azienda fosse riacquistata da Cosa Nostra, il prefetto Fulvio Sodano, che pagò la sua tenacia con il trasferimento. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E parliamo di musica con il ritorno dopo 35 anni di una band storica del rock italiano. Sono nati a Genova tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70. Hanno vissuto i primi anni d'oro del rock italiano con 3 album storici, ma da 35 anni non incidevano più. Ora i Delirium tornano con un album, Il nome del vento. Un vento che asciuga me, che nome ha? Io non lo so. Uno dei fondatori del gruppo, Ettore Vigo. C'è un ritorno del cosiddetto progressive rock. C'è stata questa idea di riunirci, siamo ritornati così per gioco, ma invece il risultato è stato ottimo. Ho visto il riscontro chiaramente che avevamo nei concerti, specialmente dei giovani, cose che non ci aspettavamo. E da lì è partito tutto. È stato entusiasmante innanzitutto, ma neanche tanto faticoso, perché siamo andati a aprire un po' così, ognuno di noi ha aperto il cassetto, perché che sai, 30 anni di silenzio, di materiale ce n'era. A qualche giorno da un nuovo Sanremo, la mente torna al festival del 1972, quando i Delirium arrivarono al grande successo con Yesael. E gli anni erano anni per noi, chiaramente sai, come i figli dei fiori, il festival pop, eccetera, quindi Sanremo era un po' visto come una cosa non andata a noi. E siamo andati un po' come sfida praticamente, è stata una sfida vincente però, quindi è stata un'esperienza bellissima. Inevitabilmente il loro nome resta legato a quello di uno dei membri originari, Ivano Fossati. Ma a loro fa piacere o dà fastidio? Ma no, fastidio no. Il fatto che ancora oggi ci chiedono ma c'è Ivano, questo ci dà un po' fastidio, perché insomma sono 35 anni che Ivano non è più con noi. Anche se in questo album ci siamo avvicinati leggermente, però non copiando Ivano chiaramente. Però non ci disturba, anzi. E un mondo della musica tutto nuovo fa paura? Ma no, perché essendo un genere non di nicchia, ma insomma quasi, non abbiamo pretese di chiaramente di arrivare alla hit parade, eccetera, di nuovo di moda il vinile, quindi è una cosa che ci ha entusiasmati in quel modo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13.44, siamo quasi alla pausa. Prima però un aggiornamento sulla notizia d'apertura. Non ci sarà alcun funerale per Eluana Englaro, ma solo una benedizione al cimitero di Paluzza in provincia di Udine, dove verrà sepolta accanto al nonno Gio Batta. A dirlo è stata questa mattina la curatrice speciale di Eluana, Franca Alessio, spiegando che la volontà di papà Beppino è quella di far cremare la figlia e prima della sepoltura farla benedire. Le notizie di oggi, GR24 Extra Large. Il procuratore della Repubblica di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo di Eluana Englaro. Per ora non abbiamo notizie di alcun reato, ha aggiunto. Il padre è in viaggio per Udine. Intanto la politica continua a discutere. Al Senato approvata una mozione in materia di fine vita. Napolitano interviene. Questo, dice il capo dello Stato, è il momento del dolore e del turbamento nazionale, che può divenire una sensibile e consapevole riflessione comune. A Bruxelles sono riuniti i ministri economici per discutere degli aiuti in Europa, mentre in Italia arrivano i dati della produzione industriale a dicembre, un crollo atteso, meno 12,2% rispetto allo stesso mese del 2007. Seggi aperti in Israele per le elezioni politiche anticipate, misure di sicurezza al massimo livello, i sondaggi attribuiscono la vittoria al Likud, la destra nazionalista, oggi all'opposizione. E l'Iran apre al dialogo, siamo pronti a trattative con gli Stati Uniti, ma in un'atmosfera di uguaglianza e nel rispetto reciproco. Parole del presidente Mahmoud Ahmadinejad nel trentennale della rivoluzione iraniana. Alle ore 14 locali, le 13 in Italia, aveva votato in Israele il 32% degli elettori, un aumento del 4% rispetto alle elezioni del 2006 alla stessa ora. I dati questi sono stati diffusi poco fa. Seggi aperti oggi in Israele, dicevamo, per delle consultazioni importanti, ne abbiamo già parlato, ma intanto... E intanto dall'altra parte dello scenario medio orientale ci sono notizie che riguardano anche noi, perché il presidente palestinese Abu Mazen si trova in Italia, a Palazzo Chigi, per un incontro naturalmente con le autorità italiane a partire dal governo. E c'è Paola Cavadi per noi, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Giornata di incontri diplomatici al vertice, quella che vedrà impegnata oggi il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Tra poco qui a Palazzo Chigi il premier incontrerà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, mentre in serata sarà la volta del presidente egiziano Hosni Mubarak. Sullo sfondo degli incontri di oggi, evidentemente, le elezioni politiche in Israele. Al centro del colloquio col numero uno dell'ANP ci sarà con ogni probabilità il piano di aiuti umanitari destinati alla striscia dopo piombo fuso, l'operazione militare israeliana costata ai palestinesi di Gaza solo in termini economici circa 2 miliardi di dollari. Presidente di turno del G8, l'Italia avrà il compito di coordinare le fasi di quello che lo stesso Berlusconi ha definito un piano Marshall per la striscia, piano che sarà al centro di una conferenza internazionale di donatori prevista per il 2 marzo al Cairo. In serata Berlusconi incontrerà il presidente egiziano Hosni Mubarak, impegnato in questi giorni in un tour di capitali europee. Mubarak sarà accompagnato qui a Palazzo Chigi dal capo dell'intelligence egiziana Omar Anwar Suleiman, uomo chiave nelle trattative in corso tra Hamas e lo Stato di Israele. L'intesa tra le parti, ancorché fragile, sembra essere vicina ed è probabile che Berlusconi e Mubarak affronteranno l'argomento nel corso dei colloqui di questa sera. Grazie a Paola Cavadi. L'Iran è pronto ad avere un dialogo con gli Stati Uniti, a condizione che esso si svolga in un'atmosfera giusta e nel rispetto reciproco. Parole inattese pronunciate questa mattina dal presidente iraniano Ahmadinejad in occasione del trentennale della rivoluzione islamica. Oggi infatti in Iran è l'anniversario della proclamazione della Repubblica Islamica e allora ne parliamo con Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Alberto Negri, autore tra l'altro del libro appena uscito, Il turbante e la corona, Marco Tropea editore, un saggio da cronista ma anche con uno sguardo storico sull'Iran degli ultimi tre secoli. Partiamo allora proprio da questo anniversario di oggi. Che cosa significa oggi per l'Iran questa data? Si diceva prima che le parole di Ahmadinejad sull'apertura agli USA sono inattese ma non del tutto imprevedibile. E 30 anni fa in realtà l'Iran consumava una sorta di distacco dall'Occidente e dagli Stati Uniti. Khomeini tornò dall'esilio a Teheran il 1 febbraio, fu accolto da una folla enorme, 4 milioni di persone, e pochi giorni dopo la cacciata dello Shah venne anche proclamata la Repubblica Islamica. Praticamente l'Iran e la Persia antica assumeva un nuovo volto e cominciava una nuova storia. Messaggi distensivi quelli arrivati oggi dal presidente Ahmadinejad, vera disponibilità secondo te? Sì, io penso di sì. Credo di sì, anche se è molto condizionata al tipo di negoziato e agli oggetti del negoziato. Che cosa vogliono gli iraniani dagli Stati Uniti? Vogliono in pratica il riconoscimento all'Iran di essere una sorta di superpotenza regionale e la garanzia che non verranno soprattutto attaccati dagli americani o da Israele. Questo è quello che vogliono in sostanza. Cosa chiedono in cambio gli Stati Uniti? Beh, prima di tutto la sospensione del programma nucleare. E su queste cose che in primo luogo si dovrà discutere e poi ci sarà la discussione sul contesto regionale, cioè sull'influenza iraniana in Iraq, come sappiamo, in Libano, in Palestina. Alberto, un'altra notizia vogliamo chiederti di commentare. L'ex presidente iraniano Khatami ha fatto capire che potrebbe annuncerà forse una sua candidatura per le presidenziali che si terranno a giugno. Anche qua che significato potrebbe avere questa notizia se venisse confermata? Beh, la notizia è confermata, cioè Khatami ha annunciato ufficialmente domenica in una conferenza stampa che dopo tante esitazioni si presenterà in corsa per la presidenza. Mohammad Khatami, ricordiamolo, fu presidente dal 97 al 2005 per due mandati consecutivi e quando salì alla presidenza fu accolto come una sorta di Gorbaciov all'iraniana, cioè si pensava che quest'uomo, questo Ayatollah con il turbante nero, segno distintivo dei discendenti di Maometto, sarebbe stato un po' una sorta di liquidatore della Repubblica Islamica. Non fu così, fu una grande delusione per gli iraniani, adesso ci riprova una seconda volta, ma non sarà facile né avere uno scrutinio corretto, né forse raccogliere consensi da una popolazione che oggi, più che alle grandi riforme politiche, guarda in realtà alle conseguenze della crisi economica. E grazie a Alberto Negri. Il turbante e la corona, intanto vi ricordo, Marco Tropea, editore. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Extra Large, @radio24.it se volete scriverci, altrimenti come sempre l'appuntamento per domani dalle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.